Incontri di Gianfranco Fabi. Questo brano jazz che iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti si ascoltano. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica anche a Fabio Cusin che è qua con noi. Buona domenica a lei, gli ascoltatori. Il jazz è una delle sue passioni. Questo brano è di Enrico Pierannunzi, I sospiri, le lacrime e il desio. Il jazz accompagna la sua vita, mi diceva. Esattamente così, lo ascolto da quando sono ragazzino e continuo a ascoltarlo nonostante il tempo sia tiranno come per tutti quelli che fanno una vita complessa come la mia, appena posso ascolto jazz. Però ecco, i sospiri, le lacrime, il desio e anche quelle note che abbiamo sentito sembrano un po' malinconiche, ma invece c'è, mi sembra, molta passione nel sì, suo... avevo pezzi più allegri, lo ammetto, però il jazz è questo, il jazz ha questa caratteristica che considero straordinaria di essere una musica la più elastica e flessibile possibile, che abbraccia dietro una paroletta molto corta possibili letture e interpretazioni che vanno dalla classica al rock, al pop, alla fusion, come gli appassionati sanno, e questo è l'aspetto che trovo veramente interessante di questo, che è un contenitore più che una forma musicale. Ecco, Fabio Cusin non si occupa peraltro di musica nella vita, ma si occupa di ristorazione, è presidente e amministratore delegato di Gemeaz Cusin, che è una delle maggiori società di ristorazioni collettive italiane, e nomen omen, Cusin cucina, infatti è un'azienda che nasce da lontano, mi pare che è nata da suo padre. Esatto, mio padre la fondò nel 49 a Genova, quindi abbiamo questo primato a cui teniamo molto di essere l'azienda che ha inventato il mestiere. Omen omen, in effetti in Veneto, la famiglia d'origine veneta, cucina vuol dire cucina, quindi insomma ci siamo trovati a fare questo mestiere. Quindi 62 anni sono di gran lunga la storia aziendale più lunga nel settore, perché i nostri concorrenti hanno cominciato negli anni 60. Quindi mio padre sperimentò a Genova per primo questa, che allora non si chiamava outsourcing, ma di fatto lo era, questa gestione affidata, diciamo, a un professionista della mensa aziendale. Prima di allora la formula era, come tutti sanno, quella della schiscetta milanese, che a Genova aveva sicuramente un altro nome. Invece da quel momento si incominciò ad affidare a società specializzate la gestione, il servizio completo della mensa aziendale. Poi dalla mensa aziendale in senso classico, la ristorazione collettiva è passata a gestire altre forme di ristorazione per collettività. Oggi pensiamo agli ospedali e alle scuole, che sono i due settori più importanti. Ecco, è un settore che ha un grande numero di aziende in Italia, quindi c'è molta concorrenza. Sì, questo ahimè è il nostro cruccio quotidiano, perché ce n'è troppa, io direi, nel senso che in economia la si chiama concorrenza perfetta. Se lei pensa che ci sono 1700 aziende che fanno questo mestiere per un mercato che è importante, perché insomma devo dire che i numeri non sono piccoli, perché la ristorazione è un'esigenza insopprimibile, questo sa va san dir, ma la concorrenza è veramente elevatissima, non ci sono barriere all'entrata, quindi bisogna essere capaci a gestire bene. Come si fa? Qual è il segreto per emergere? Perché voi comunque siete diventati una grande azienda. Le aziende che fanno questo mestiere devono avere una caratteristica, secondo me, cioè saper fornire un servizio di qualità che risponde ai requisiti nel tempo. Cioè la dimensione temporale per chi fa questo mestiere è fondamentale. Ma nel tempo non nel senso di arrivare in orario. No, oltre a quello, perché sennò ovviamente quello è fondamentale, ci applicano le penali, fondamentale. Certo. Però nel tempo, nel senso proprio di essere capaci a soddisfare questa esigenza negli anni. Noi abbiamo una durata media dei contratti privati di 16 anni e contratti, come dire, che sono un po' la punta della durata della nostra azienda, che sono in corso ininterrottamente da 47 anni. Questo vuol dire che sono passate probabilmente tre generazioni di dipendenti, di operai, a mangiare nella nostra mensa. Ecco, questo è come dire, il punto che differenzia un'azienda che sa fare questo mestiere, che lo vuol fare con un approccio consapevole, dal mordi e fuggi, che nel nostro mestiere non ci può stare. Quali sono i più grandi, più importanti clienti della vostra azienda adesso? Dunque, come clienti privati ne abbiamo circa un migliaio, quindi i più importanti sono il gruppo delle Ferrovie dello Stato, oggi le mense dei dipendenti delle Ferrovie, il cliente più importante da un punto di vista numerico, fatturato di circa 40 milioni all'anno, fatturato complessivo dell'azienda di 350, così le donne. Quindi fatturato un milione al giorno come pasti? Sì, più o meno sì, esatto. E come numero di pasti siamo sui 60 milioni all'anno. Mi sono anche divertito a fare un conto nella storia della Gemert. Noi abbiamo erogato, quindi fornito, circa 2 miliardi e mezzo di pasti, che insomma messi in fila sono tanti. Ecco, come è cambiato negli anni? Lei è entrato peraltro ovviamente più tardi, suo padre ha portato avanti l'azienda, poi l'azienda è entrata in un gruppo multinazionale, sì, mi sembra. Nel 72 mio padre e i suoi parenti che avevano inventato, fondato questa azienda, dovettero far entrare un socio esterno, un francese, tale Jacques Borel, che faceva lo stesso mestiere, che dopo qualche anno cedette a sua volta a un gruppo che oggi si chiama Accor, multinazionale che peraltro si occupa di altri settori, oggi si occupa di ticket restaurant e di alberghi, e Gemert rimase nel perimetro di Accor circa 30 anni, quindi un periodo molto lungo. Nel 2007 è iniziata la terza fase, quindi l'abbiamo provate un po' tutte, siamo invece ora controllati in un fondo di private equity, quindi esperienza diversa, devo dire molto positiva dal mio punto di vista, perché mentre all'interno di una multinazionale noi eravamo un po' un mestiere di riserva in qualche modo, quindi non avevamo possibilità di investire, di crescere, un fondo che ha per definizione invece come obiettivo quello di valorizzare le imprese, diciamo che questo ha funzionato. Ecco, pur mantenendo una continuità familiare, non più di controllo ma di gestione dell'azienda. Sì, sì, di gestione, io sono un piccolo azionista svolgo questo ruolo di amministratore legato ormai da tanti anni, devo dire dal 97. La storia della famiglia è molto lunga e complessa, perché c'è stata una sorta di, qualcuno l'ha chiamata Dallas familiare, nel senso che sono stati rapporti non facili anche tra le varie componenti della famiglia, cose che capitano, direi, certo, soprattutto in Italia. Per questa serie di lunghi percorsi e giri strani io sono ritornato sono rientrato in Gemert dopo una parentesi di rottura familiare durata molti anni. Però appunto, se le racconto tutta la storia, la trasmissione vola via, forse, esatto, lasciamo, esatto, ad altre occasioni. Torniamo un po' alla logica della gestione. Com'è cambiata? Lei forse ha conosciuto l'azienda quando la gestiva suo padre, com'è cambiato il modo di fare ristorazione collettiva? È cambiato molto e sta cambiando ancora molto, nel senso che il modello iniziale era in realtà un mandato molto limitato. Si chiedeva a chi gestiva la mensa, parliamo sempre di mensa, anche se è una parola che vorremmo abolire dal nostro vocabolario, ristorante aziendale, esattamente. Il modello era gestire la struttura con un mandato molto limitato, cioè comprare le materie prime, eseguire un menu che qualcun altro scriveva e assumere il personale. Oggi il modello è, direi, sostanzialmente diverso, nel senso che c'è proprio un chiave in mano del servizio, cioè l'intero processo di ristorazione è affidato alle mani di chi sa fare questo mestiere, che si occupa di tutto, dalla realizzazione delle cucine, banalmente, ma è una formula molto utilizzata, alla proposta alimentare, che deve essere, come dire, espressione del know-how dell'azienda, quindi delle capacità che le persone... Quindi anche ogni singola azienda vuole esprimere anche nel menù aziendale una propria identità? Assolutamente sì, è un po' in quello che cerchiamo di distinguerci, anche se ricordiamo che il nostro prezzo medio, e non parlo solo di Gemert ma di tutto il settore, è di 4,20 euro a pasto. Completo. Quando una massaia probabilmente se va a fare la spesa con quella cifra si compra forse, non certo, so, io, forse un piatto di spaghetti, posso uscire, esatto, ecco. 4,20 euro. Sì, è estremamente basso, e mi riporto quello che dicevo prima, la competizione è feroce, e quindi la leva del prezzo è inesistente. Il prezzo lo fa il mercato. E come fate a starci a fornire un primo, un secondo, un contorno? Ogni tanto ce lo chiediamo anche noi, in effetti, però diciamo che facendo bene i conti si tratta di gestire con un'efficienza massima ogni componente aziendale, e quindi non sbagliare nulla, ovviamente non sbagliare il prezzo, che è la cosa più importante, e poi gestire le componenti di costo, che sono essenzialmente il costo del lavoro, perché il nostro è un mestiere labor intensive. Certo. Perché incide circa il 40% sul fatturato, e l'acquisto delle materie prime. Quindi bisogna avere una grande capacità di acquisto e una estremamente sofisticata capacità di gestione del personale. Il resto segue. Qual è il piatto che vi ha dato più soddisfazione nel presentarlo a una proposta di ristorante aziendale? Ma guardi, questa è una domanda a cui non so rispondere, perché sono tantissime. Noi abbiamo come ricette proposte in tutta l'azienda, alcune migliaia ovviamente. Tenga conto che nel nostro mestiere la cucina va fatta sul posto, nel senso che ogni cliente ha esigenze diverse. La cucina che proponiamo a Milano è completamente un'altra cucina rispetto a quella che proponiamo in Sicilia. noi siamo presenti in tutta Italia, e quindi abbiamo, in realtà siamo tante aziende, cioè ogni cucina deve essere ovviamente espressione del luogo, se no avremmo presi probabilmente a pedate subito. Ma i vostri dipendenti, pare che sono 6.000 dipendenti, non sono tutti circa. Cuochi? Cuochi sono ovviamente solo una parte, gli altri sono cosiddetti addetti mensa, cioè persone che svolgono tutti i lavori possibili, che sono ovviamente da lavare le pentole in su. Incontri. Bentornati all'incontro di oggi con Fabio Cusin, presidente amministratore delegato di Gemeaz, una primaria, una delle maggiori aziende italiane nella ristorazione collettiva. Note di jazz, Fabio Cusin dicevamo prima, è un grande appassionato di jazz, oltre che essere appassionato della sua azienda. Le piace il jazz, ma le piacciono anche i menù, preparare i menù, ma non è tanto la sua competenza è più quella della logistica complessiva dell'azienda. Sì. Diciamo che come amministratore legato la mia priorità è quello di curarmi dell'organizzazione aziendale, che mi riallaccio a quello che dicevo prima, proprio perché i margini tipici del settore sono veramente ridotti, deve essere assolutamente pennellata su misura rispetto alle esigenze. Non possiamo permetterci di avere una struttura eccessiva o non coerente alle esigenze. Questo è il tema del mio lavoro quotidiano, come si può immaginare. Ecco, un lavoro che però ha lasciato spazio nel tempo anche a qualche hobby. L'hobby principale mi pare che sia quello del viaggio. Sì, un hobby che forse è qualcosa di diverso, di più di un hobby. Per me è una ragione di vita viaggiare, anche se il fatto di avere 3 figli, di cui uno che compie oggi 3 mesi, ovviamente limita piuttosto nettamente la mia possibilità di fare i viaggi che invece mi piacerebbe fare, che comunque quando riesco continuo a fare. Per me il viaggio è un'esperienza, direi, quasi esistenziale, ma quando parlo di viaggio mi riferisco però a un certo tipo di viaggio, cioè i cosiddetti viaggi di attraversamento, cioè partire per andare in qualche posto dove la dimensione che conta, o meglio, quella che a me interessa, è l'attraversamento di un paese. Non è arrivare in un posto. E quindi è meglio viaggiare, non dico lentamente, però guardando le cose, che non partire e arrivare. E com'è il suo viaggio ideale? Magari mi viene in mente, io sono appassionato di letteratura di viaggio e questa è una ovvia conseguenza, un bellissimo libro di Evelyn Vogt che si intitola Quando viaggiare era un piacere, e si viaggiava così, come dice lei, lentamente sul piroscafo magari. Oggi io il piroscafo non lo prendo, però magari prendo la moto o addirittura a piedi, insomma. L'importante è che il viaggio di attraversamento consente di vivere l'esperienza del viaggio come un'esperienza che va vissuta quotidianamente. Quindi fermarsi, vedere un paese, una città, parlare con la gente, osservare il modo di vita, viaggiare in moto. Il moto è un viaggio da una parte un po' epico, soprattutto se si fanno dei viaggi un po' lunghi, dall'altra parte sicuramente che permette di guardare qualcosa di più oltre al paesaggio, che comunque è già qualcosa di bello. Qual è il viaggio che ricorda con più, magari con più nostalgia tra quelli che ha fatto? Con più nostalgia l'Iran, perché con mia moglie siamo andati in Iran in moto partendo da Milano, quindi i chilometri non sono stati pochi e le difficoltà neppure. Più che altro per la bellezza dei paesaggi, perché l'Anatolia è un posto veramente straordinario, dal punto di vista paesaggistico quasi incredibile. Però ne ho fatti molti, il Sahara l'ho girato sia in moto che in fuoristrada, in lungo e in largo. Il viaggio più importante che ho fatto, come spesso capita, il primo che ho fatto, l'iniziazione al viaggio, ho fatto la famosa transahariana, quindi l'attraversamento del Sahara fino al Golfo di Guinea. Quindi un po' la Parigi-Dakar in pratica. Sì, una volta si faceva un percorso simile, questo viaggio però portava fino al mare, quindi fino al Golfo di Guinea. Oggi è un viaggio che ovviamente è infattibile per ovvie ragioni, e questo è stato il viaggio che mi ha iniziato questa passione. Di lì ho girato, insomma, 86 paesi, li ho contati un giorno, non sono pochi. E molti dei quali li ho trovati in moto. E lei, appunto, per fare questi viaggi usava la BMW GS, che era moto tipica per i viaggi. Sì. Ha mai avuto dei problemi con questo? No, ho mai avuto un problema, fin quando non me l'hanno rubata. Il problema è stato questo, ma problemi tecnici mai. Beh, sì, è una moto ambita. Ecco, poi dopo è passato invece alla Ducati per motard. Sì. Non è tanto una moto per grandi viaggi. No, non ci andrei in Iran, effettivamente, perché probabilmente arriverei con la schiena rotta, però è una moto per divertirsi, ovviamente. Non, il giorno in cui potrebbe... Con base a Genova, quindi la sì, transalpennica. Esattamente, sì, molto più modestamente, però come divertimento forse è quasi maggiore, devo dire. No, parlo così perché anch'io sono appassionato di moto e indubbiamente la moto è qualcosa che permette di vivere il viaggio sentendo la strada, sentendo e avendo poi anche la necessità di fermarsi sì, ogni tanto a guardare e a parlare con la gente. E poi si suscita simpatia negli altri. Esattamente così, cioè il viaggiatore motociclista ha un approccio col mondo che incontra completamente diverso da qualunque altro tipo di viaggiatore, e questa empatia che si crea con le persone, questo mi è successo veramente ovunque, anche nei paesi teoricamente più pericolosi e ostili. Quando si arriva in moto, impolverati, con migliaia di chilometri alle spalle, tutti sono pronti a accoglierti, a invitarti, a farti entrare in casa loro, anche perché non si hanno, diciamo, strumenti che ti consentono di stare lontano dalle persone. Certo. Perché uno si non suscita molta tenerezza, sì, in fondo. Esattamente. Ecco, è un altro hobby, pare sia quello della fotografia. Lei ha... Che è strettamente collegato al primo, perché durante i miei viaggi chiaramente ho sempre cercato di fotografare quello che vedevo. Quindi sì, è l'altra mia grande passione. Ecco, c'è un libro che è uscito, che lei ha pubblicato con le sue fotografie, con le poesie di Luciana Martino Cusin, che è mia mamma, che sua mamma è mancata l'anno scorso, che è una poetessa nota, che ha pubblicato diversi libri. Abbiamo fatto questo libro insieme, che è stata un po' una scommessa, iniziato come un divertimento, ma poi ha funzionato, devo dire, perché abbiamo messo insieme delle sue poesie, delle mie fotografie. Beh, si intitola Sotto lo stesso cielo, sotto lo stesso cielo nel senso che il viaggio è qualcosa che cambia la prospettiva, però c'è qualcosa che rimane. Esattamente, sì. Il titolo poi è dedicato a mio fratello che, devo dire, è morto durante uno di questi viaggi, quindi chiaramente quest'opera è stata pensata per lui, perché il cielo che accomuna me e mia madre è lo stesso cielo che ha vissuto mio fratello, ovviamente. Ho capito, quindi è un ricordo legato anche a, una, sì, a un momento particolare, sì, sì, della sua vita. Ecco, il viaggio che lei vorrebbe fare che non è mai riuscito a fare? Ma mi manca tutto Sud America, ammetto. Il problema è che per viaggiare in moto bisogna spedire la moto, e quindi più ci si allontana dall'Italia più, certo, la più cosa complicato, si complica. Però è... mi riprometto sulle di farlo. Sulle orme di Che Guevara, in fondo. O di Chetwin. O di Chetwin, perché, sì. Sì, anche di Che Guevara, giustamente, che ha fatto in moto esattamente quel viaggio. Ma per gli appassionati di viaggio, gli atterratori di viaggi, il mito rimane Bruce Chetwin, che è quello che ha insegnato a tutti i viaggiatori come si viaggia. Torniamo all'azienda, torniamo a parlare di cucina, anche per concludere questa nostra chiacchierata un po' col suo core business. Invece il contratto che lei vorrebbe fare, non dico il contratto con l'azienda, ma quale traguardo si propone, quale strategia si propone per i prossimi anni la sua azienda? Ma la strategia è quella di ampliare la gamma di servizi. Noi siamo molto legati, come le dicevo, al nostro mestiere. Noi facciamo ristorazione collettiva, è un mestiere che sappiamo fare bene. Però oggi un gruppo delle nostre dimensioni deve necessariamente spostare il suo asse strategico verso un posizionamento, diciamo, più multiservizi, cosa che abbiamo incominciato a fare e già oggi gestiamo altre attività, per esempio i buoni pasto, gestiamo asili nido, abbiamo incominciato a diversificare. Questa è una direzione sulla quale stiamo lavorando, perché è necessario non solo crescere dal punto di vista dimensionale, ma anche estendere la gamma di offerta in una logica di global service ai nostri clienti. Ma questo richiede anche investimenti in una logica diversa, che non sia solo quella dell'ampliamento dell'attività. Sì, investimenti soprattutto in capitale umano, direi, perché il nostro mestiere B2B, nell'ambito dei servizi, la cosa che conta di più naturalmente è la componente umana, la capacità personale. Quindi gli investimenti che noi intendiamo fare sono proprio in questa direzione. E non hai mai avuto voglia di aprire un ristorante di quelli normali? No, perché è un mestiere completamente diverso e secondo me chi lo fa rischia di sbagliare. Cioè, chi sa fare bene la ristorazione collettiva probabilmente non sa fare una ristorazione di alto livello, o se lo sa fare è un puro caso, perché sono veramente dinamiche completamente diverse. E qual è la lamentela, non dico più frequente, ma che le ha dato più fastidio in fondo tra i suoi clienti o tra i clienti dei clienti, perché poi appunto il cliente è l'azienda, cioè, il cliente, ma poi è il consumatore. È il consumatore. Cioè, guardi, più che la lamentela, diciamo, la nostra paura, la paura di fare questo mestiere è la assuefazione, cioè la noia che il consumatore può provare se si non se gli date sempre polenta e formaggio, se non si è sufficientemente attenti a cambiare, variare, innovare anche nel servizio che si propone. Questo rischio esiste oggettivamente. Parlavo prima di contratti che durano 47 anni. forse dovrei andare a chiedere a qualcuno di quei commissari se per caso nel frattempo non ha trovato un po' ripetitivo il menù. Questo è il punto di attenzione di chi fa questo mestiere da sempre. E dovendo tenere i costi bassi, cambiare i menù non è facile. Infatti, perché anche le materie prime, oltre al costo, sì, del lavoro, hanno un peso. Sì, e conciliare l'economicità oggettiva di questo mestiere con la capacità di dare un servizio comunque gradevole e innovativo, come dicevo, non è affatto banale. E con l'azionista, che è appunto, diciamo, un fondo di private equity, i rapporti sono costruttivi? Sì, sono stati molto positivi, devo dire. Confermo quello che si dice normalmente dei fondi, che è un socio, come dire, che chiede, no? Che quindi ha un ruolo anche di stimolo, oggettivamente in qualche caso anche di forte stimolo, diciamo così. Ma questo è un bene per l'azienda, perché soprattutto in un mercato molto competitivo come dicevo il nostro, è necessario correre. Quindi diciamo che ci siamo trovati in sintonia. Noi correvamo già, il fondo si aspetta una corsa veloce, ma non è stata per noi una novità. E allora auguriamo buon appetito, anche se è l'ora della digestione, però cerchiamo appunto di guardare anche in avanti con le possibilità di non annoiare mangiando le persone. Questo può essere un vostro motto. Assolutamente sì, lo condivido. Grazie allora a Fabio Cusi per essere stato con noi, ricordo presidente e amministratore delegato della Gemeaz, una delle maggiori aziende italiane di ristorazione collettiva. Grazie anche a Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.